Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Continuo. Non so dove, ma continuo. Quindi vi rassicurate, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, almeno diciamo per gli amanti, gli affezionati di Totti, dice continuo, non so dove, ma continuo. Questo dopo la sua ultima partita, l'ultima partita della sua vita per quanto riguarda il calcio. E così diciamo salutiamo e congediamo anche il pupone, perché stasera parleremo, tanto per ricominciare con la nuova settimana di Effetto Notte, con molti altri temi decisamente più ponderosi. Per esempio ci concentreremo molto sulla legge elettorale, perché sembra che potrebbe essere la volta decisiva, che si dice così da mesi se non da anni, nel senso che si sta arrivando forse a una convergenza sul sistema, sul modello tedesco. Poi ci faremo spiegare meglio in cosa consiste, un po' l'abbiamo detto in questi giorni, ma vediamo quali potrebbero essere gli eventuali correttivi. Sembra che ci sia una convergenza tra PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Di questo ci occuperemo, come anche di come potrebbero cambiare gli equilibri geopolitici dopo che il G7 di Taormina, praticamente possiamo dire fallito, non ci sono stati grandi successi, anzi Trump immusonito tutto il tempo, non ha neanche tenuto la conferenza stampa e ha lasciato in sospeso la questione del clima, dei cambiamenti climatici e anche un po' tutto il resto, tanto che la cancelliera Merkel ha dovuto dire: abbiamo capito che non possiamo contare sugli Stati Uniti. Ma intanto Macron ha invitato Putin, il presidente russo, a Versailles, nei giardini splendidi della Reggia di Versailles. E quindi evidentemente i giochi sullo scacchiere internazionale stanno un po' cambiando, capiremo come. Poi molti altri temi, avremo anche aggiornamenti da Manchester naturalmente sulle indagini, perché adesso pare che l'intelligence, che si indaghi sulle falle dell'intelligence e non soltanto sui terroristi. Insomma, comunque tra pochissimo cominciamo con il riassunto della giornata, poi tutti questi approfondimenti, e per voi naturalmente due canali per intervenire qui Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349-238-6666. Adesso vi racconto la giornata. Legge elettorale, PD e Movimento 5 Stelle convergono sul sistema elettorale tedesco dopo un incontro che definiscono cordiale e distaccato. Ma Alfano non ci sta, il rischio elezioni fa cadere la borsa, meno 2%. Economia, Draghi al Parlamento Europeo dice ripresa solida, ma è ancora necessario un forte stimolo monetario. Dopo il G7, il ministro degli esteri tedesco Gabriel sottolinea con Donald Trump gli Stati Uniti perdono il loro ruolo leader dell'Occidente. Prove di dialogo intanto tra Macron e Putin, ricevuto in Francia dal presidente francese. Gianfranco Fini, indagato per concorso in riciclaggio. Sequestrate all'ex presidente della Camera due polizze vita da 1 milione di euro. Il bimbo morto dopo le cure omeopatiche, secondo l'autopsia, è deceduto per encefalite. Per stabilire le cause dell'infezione si attendono esami istologici. La donna morta bruciata dall'ex, 30 anni di carcere all'assassino che il 2 agosto a Lucca la cosparse di benzina e poi le dette fuoco. Tiger Woods ancora nei guai, arrestato in stato di ebbrezza, non si ferma il declino dell'ex campione di golf. E partiamo quindi dalla legge elettorale, questa volta l'intesa sembrerebbe davvero vicina dopo l'avvio degli incontri del Partito Democratico con le altre forze politiche. Si va verso un modello in stile tedesco, il segretario del PD Renzi vede possibile l'accordo con Forza Italia e il Movimento 5 Stelle su modello proporzionale con soglia di sbarramento al 5%. Il capogruppo del PD Rosato commenta: è andato tutto bene dopo l'incontro tra PD e Movimento 5 Stelle, domani tocca al capigruppo di Forza Italia. L'obiettivo dei tre maggiori partiti è difendere la soglia di sbarramento al 5%. Ma l'alleato di governo Alfano di Area Popolare non ci sta e sottolinea: le posizioni sono distanti sia sul tema della legge elettorale sia sul tema della durata della legislatura. Sarebbe stato naturale, dice Alfano, per il PD cercare prima un accordo col suo alleato di governo e non con le forze che sono all'opposizione. E il rischio di voto anticipato in autunno penalizza Piazza Affari, che chiude in rosso con il FTSE MIB a meno 2%. Poi su questa possibile intesa e su cosa sia effettivamente il modello tedesco e sulla possibilità di votare in autunno ci torniamo tra poco con Effetto Notte. Intanto via libera della Commissione Bilancio alla manovra bis. Il testo approderà in aula a Montecitorio domani pomeriggio. Sentiamo allora quali sono le novità. È un testo, quello della manovra, che esce con importanti modifiche dalla Commissione Bilancio. C'è la norma che salva i direttori stranieri dei musei dopo la sentenza del TAR che ha annullato 5 nomine. C'è il sì all'abolizione del conio dal prossimo gennaio delle monetine da 1 e 2 centesimi. I fondi di previdenza complementare saranno esclusi quindi dal bail-in. Non sono ammesse dunque azioni dei creditori. Quanto alle banche, si facilita la cartolarizzazione dei crediti deteriorati. Non sono mancate però le sorprese, come il raddoppio dei fondi per il Teatro Eliseo di Roma, approvato nonostante il parere contrario del governo. Esecutivo che difende intanto la scelta di inserire nella manovra i buoni lavoro, così il ministro del lavoro Poletti. È un testo che affronta il tema, i voucher non ci sono più, non torneranno. Di nuovi voucher parla però la CGIL, che annuncia che ricorrerà alla Consulta e chiama in piazza i lavoratori per il 17 giugno. Non voteremo la fiducia, confermano gli ex PD di Articolo 1. Il commento del presidente di Confindustria Boccia. Far cadere un governo per la questione voucher ci sembra, come dire, che il senso delle priorità forse non sia molto chiaro ad alcuni in questo paese. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il governo, al di là delle polemiche sul voto, oggi ha dato l'avvio a un grande piano di investimenti pubblici per 47 miliardi. Il presidente del Consiglio Gentiloni, alla firma sulla ripartizione degli investimenti, ha parlato di una fortissima iniezione di risorse che ci mette in condizione di ripartire. Abbiamo tutti la consapevolezza di quanto gli investimenti pubblici siano decisivi per dare ossigeno alla ripresa, in particolare in alcuni settori, penso al settore delle costruzioni che è così importante per lo sviluppo del nostro mercato interno. Credo che uno Stato che investe in opere pubbliche a lungo termine è uno Stato che investe sulla sicurezza del proprio territorio. E adesso restiamo sull'economia con l'intervento del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi davanti al Parlamento Europeo. The economic upswing is becoming increasingly solid. Draghi ha ribadito la necessità di una politica monetaria ultra espansiva, ma ha anche detto che la ripresa economica europea è sempre più solida. E adesso il dopo G7 di Taormina, a Versailles in Francia, si è tenuto l'incontro Macron-Putin per rilanciare il dialogo con Mosca. Un confronto franco e diretto, con differenze sui diversi dossier, ma anche unità nella lotta contro il terrorismo. Il primo faccia a faccia tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin non copre le divergenze tra i due leader sui temi più sensibili, ma dimostra una volontà pragmatica di arrivare a soluzioni comuni sulle crisi più urgenti. Se l'obiettivo di sradicare l'ISIS dimostra totale identità di vedute, Siria e Ucraina restano un terreno più minato. Il fil direttore della nostra azione in Siria. Sulla Siria, Macron sottolinea la necessità di una transizione pacifica, preservando lo Stato siriano, per evitare il replicarsi di situazioni come la Libia. Macron ha aggiunto che l'utilizzo di armi chimiche è anche una linea rossa, superata la quale scattano le rappresaglie. Sull'Ucraina si continua a tentare la strada diplomatica. Macron rilancia il formato della Normandia. Putin contrattacca. Le sanzioni contro di noi non servono a risolvere la crisi. Ma è sulle presunte interferenze russe nelle elezioni francesi che l'atmosfera si scalda. Incurante della presenza di Putin, Macron definisce i media Russia Today e Sputnik come strumenti di interferenza. Non sono organi di stampa, per questo li ho esclusi in campagna elettorale, e chiude pragmatico: quello che ci dovevamo dire a riguardo ce lo siamo detti dopo l'elezione. Putin incassa l'affondo sulle sue creature mediatiche, nega interferenze di hacker russi e giustifica l'invito a Marine Le Pen in campagna elettorale come la risposta a una richiesta della leader del Front National. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevo in apertura, poi più tardi torniamo sui mutevoli equilibri geopolitici. Intanto l'ambiente resta tema principe in queste ore. Il presidente americano Trump dovrebbe comunicare a breve le sue intenzioni sull'accordo di Parigi. Indietro non si torna, ha ribadito il ministro dell'ambiente Galletti a margine della presentazione a Roma degli eventi per il G7 Ambiente di Bologna, che si terrà l'11 e 12 giugno. Indietro non si torna, l'Italia e l'Europa rimarranno ancorati agli accordi del protocollo di Parigi 2015. Lì c'è il futuro del pianeta, ma c'è anche il futuro dell'economia globale. Oggi fare politica economica ambientale non è un onere per le imprese, ma è un vantaggio. L'America farà le proprie scelte, è legittimo, noi andremo avanti, abbiamo preso un impegno morale, etico, e lo porteremo fino in fondo. Una presa di posizione però quella americana che pesa. Certo, sono scelte che peseranno. Io credo che Trump i problemi li avrà all'interno dell'economia americana, perché oggi la politica ambientale è una politica conveniente per le aziende, e io credo che convenga anche alle aziende americane produrre energie rinnovabili. E questo era Galletti al Radio 24. Adesso in Gran Bretagna, nell'ambito delle indagini sull'attentato di Manchester, oggi sono scattate le inchieste sulle falle degli 007. Di questo ci occuperemo dopo, nel corso di Effetto Notte. Restiamo però all'estero. Un potente terremoto ha scosso oggi l'isola di Sulawesi, in Indonesia. Secondo lo USA Geological Survey, il sisma ha avuto una magnitudo di 6.6 ed è stato localizzato a una profondità di circa 9 km nei pressi della città di Paso. In Russia una violenta tempesta si è abbattuta nel pomeriggio sulla capitale russa, su Mosca, causando la morte di almeno 11 persone. Il vento ha sradicato molti alberi. E poi per la cronaca torniamo in Italia. Sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, di due polizze vita con un valore di riscatto di circa 495.000 euro l'una, quindi complessivamente di 1 milione, nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Secondo il legale dell'uomo politico, sarebbero state invece sequestrate le polizze intestate alle figlie. La misura è relativa all'indagine che ha portato in carcere l'imprenditore Francesco Corallo e nella quale Fini è indagato per concorso in riciclaggio. Poi ci facciamo raccontare meglio la vicenda da chi l'ha seguita. È morto per encefalite, un'infiammazione dell'encefalo, il piccolo Francesco, il bambino di 7 anni che era stato curato a casa per un'otite bilaterale nelle Marche solo con preparati omeopatici. Emerge dalle prime indiscrezioni sull'autopsia che si è svolta oggi. E poi, sempre restando sulla cronaca, il rogo di Centocelle. A Roma ci sono due indagati. Primo passo formale nell'inchiesta sul rogo del camper di Centocelle, quello in cui morirono circa 2 settimane fa le 3 sorelle nomadi Francesca, Angelica ed Elisabeth Alilovic, rispettivamente di 4, 8 e 20 anni. La Procura di Roma ha infatti iscritto 2 nomi nel registro degli indagati. Si tratta di 2 uomini, anche loro di origine rom, provenienti da uno dei campi in cui la famiglia aveva vissuto negli ultimi anni. Dovranno rispondere di omicidio plurimo, tentato omicidio, detenzione di oggetti incendiari. I due presunti assassini però non sono stati rintracciati, potrebbero essersi dati alla fuga anche all'estero, ipotizzano gli inquirenti. A loro si è arrivati attraverso una serie di testimonianze e l'esame di immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso. La pista seguita dagli investigatori resta quella di una faida interna alla comunità rom. Gli Alilovic avevano infatti subito pesanti minacce, proprio per questo da qualche tempo non risiedevano più in un campo nomadi, ma in un parcheggio dietro al centro commerciale di Viale della Primavera, nel quartiere Centocelle, dove è avvenuta la tragedia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Femminicidi, è stato condannato a 30 anni di reclusione con rito abbreviato Pasquale Russo, 47 anni, che il 2 agosto scorso a Lucca cosparse di benzina applicandole poi fuoco Vania Vannucchi, 46 anni, la sua ex, morta poi in ospedale per le gravissime ustioni. Il pubblico ministero aveva chiesto che fosse condannato non a 30 anni ma all'ergastolo e non ha escluso che la procura non intenda ricorrere in appello, appunto per richiedere ancora l'ergastolo. Una scoperta adesso davvero particolare, una rana che porta il cuore sulla pelle. In Sud America vivono diverse specie di rane con la pelle trasparente e gli organi visibili, dette rane di vetro, ma una nuova specie recentemente scoperta in Ecuador, nell'Ecuador amazzonico, va oltre. La sua pelle trasparente si tende sul torace e sull'addome, lasciando completamente esposto il cuore. Questo nuovo anfibio, un nome quasi improponibile, impronunciabile, si chiama Yalinobetrachium yaku, è stato descritto sulla rivista Zookeys da un gruppo di ricercatori dell'Università San Francisco de Quito in Ecuador. Per chiudere il calcio, la settimana che porta alla finale di Cardiff si è aperta oggi con il Media Day in casa Juventus. Sentiamo Andrea Barzagli al microfono di Dario Ricci. Andrea, sensazioni, allegrie a 2 parole d'ordine, equilibrio e ansia, danno l'idea di una Juve che non deve ripetere alcuni passaggi a vuoto di quanto accaduto 2 anni fa, o sbaglio? Ma quella di 2 anni fa sicuramente ci ha dato più esperienza. Diciamo che quest'anno è un percorso un pelo diverso da 2 anni fa, direi molto più netto, molto più consapevole. Arriviamo a giocare la seconda finale in 3 anni, una cosa importante penso per il club. È normale che dobbiamo essere positivi e pensare insomma di giocarci questa finale, secondo me, meglio mentalmente rispetto a 2 anni fa. E con il calcio direi che abbiamo raccontato quindi in sintesi la giornata con i fatti principali in Italia e all'estero. Non perdete neanche un minuto di Effetto Notte, sempre insieme sino alle 22. Tra poco cominceremo a parlare di questa possibile intesa sulla legge elettorale. Si voterà o non si voterà in autunno? Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi. Sto anche guardando i vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre quello, 349-238-6666. A proposito della legge elettorale di cui parleremo tra pochissimo, Francesco scrive: in linea di principio non sarebbe male questo modello tedesco, fin dai tempi del referendum segni, sin da quei tempi sono un proporzionalista convintissimo, purtroppo in concreto significherebbe inciucio Renzi e Berlusconi contro 5 Stelle, uno scenario politico da incubo chiunque dovesse vincere, scrive Francesco. E poi Simone invece dice, tra virgolette, mette: stile tedesco è divertente, il problema è che la Germania è un paese serio, unito sui principi di fondo, dove frequenti e privi di scandalo sono gli inciuci, chiamati grandi coalizioni, la Gran Coalizione, dove non esistono i ribaltoni e dove non esiste un partito populista col 30% dei voti. Vedremo, dice Simone, un po' dubbioso. Ne parleremo a momenti, quindi, della legge elettorale e di questa possibile convergenza tra le principali forze politiche italiane. Però, se non avete acceso puntualmente alle 21, vi ricordo come sempre i fatti principali. Legge elettorale, possibile intesa PD, Movimento 5 Stelle, mentre Area Popolare di Alfano è pronta allo strappo, e Piazza Affari teme il voto ottobre e quindi chiude con meno 2%. Poi il presidente della Banca Centrale Draghi, che dice che la ripresa c'è ma ancora non basta, che quindi serve ancora il quantitative easing. E poi ancora ingerenze sul voto in Francia, Macron duro con Putin, nel senso che Macron ha ospitato Putin in Francia a Versailles e, oltre a cercare un dialogo, insomma, anche qualche stoccata nei confronti di Putin, come per l'appunto le possibili ingerenze, le eventuali ingerenze nelle presidenziali americane. E poi, a proposito del Russia Gate, Trump difende il genero che è indagato in questo scandalo. Sequestrate a Fini, tornando in Italia, Gianfranco Fini, 2 polizze vita da 1 milione di euro, e sarebbe indagato per concorso in riciclaggio. E poi il bimbo che è morto nelle Marche, ad Ancona, curato solo con l'omeopatia, sarebbe morto di encefalite, secondo i primi dati dell'autopsia. Mentre, tornando a un femminicidio dell'anno scorso, del 2 agosto scorso, a Lucca, una donna morta bruciata dall'ex è stato condannato a 30 anni di carcere. E poi Tiger Woods, l'ex campione di golf, arrestato in Florida, ancora guai per lui, è stato arrestato in stato di ebbrezza. La polizia ha diffuso una foto in cui il campione di golf appare chiaramente alterato. E quindi parliamo di questa benedetta legge elettorale. Incredibilmente, forse è la volta buona, dopo l'avvio dei incontri da parte del Partito Democratico con le altre forze politiche, sembrerebbe che la legge elettorale conosca un'improvvisa accelerazione che punterebbe dritta dritta verso il sistema elettorale tedesco, con eventuali correzioni. Matteo Renzi vede un possibile accordo con Forza Italia e il Movimento 5 Stelle su un modello prevalentemente proporzionale, con uno sbarramento, una soglia di sbarramento al 5%. Sinistra Italiana dice: siamo disponibili a provare una legge elettorale che sia interamente proporzionale, se non ci sono trucchi a proposito del 5%, perché dice: noi non abbiamo paura di non superare il 5%, anzi. Però con Alfano, che è l'alleato di governo del PD, le posizioni sono distanti, e Alfano lo ha sottolineato in serata. Ne parliamo con Emilia Patta del Sole 24 Ore. Buonasera Emilia. Buonasera. Allora, quindi Renzi vede questo possibile accordo, vede bene secondo te? Ma sembrerebbe proprio di sì, arrivati a questo punto sembrerebbe proprio di sì. La svolta vera è stato l'ok di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle. Oggi c'è stato un incontro tra le delegazioni parlamentari, ma insomma, a questo punto, con il sì di Forza Italia, che è il sistema che ha sempre da molti anni vuole Silvio Berlusconi, e il sì di Grillo, sono i 3 maggiori partiti. Quindi insomma sembrerebbe di sì. Certo, c'è sulla strada, è stata lasciata una vittima, come accennavi Alfano prima, che è il povero Alfano. Però in effetti il 5% è l'unico elemento di disproporzionalità in una legge per il resto del tutto proporzionale. Ecco, e Emilia, quindi diciamo che gli altri grandi partiti non possono rinunciarci perché è un elemento di semplificazione, insomma. Quelli più piccoli, insomma, i partiti più frammentati, non passerebbero. In una situazione così frastagliata come quella politica italiana, già è qualcosa, insomma, entrerebbero in Parlamento 4, al massimo 5 partiti se riesce a superare lo sbarramento la sinistra variegata. Emilia, questo. Allora, ci hai dato quindi una sintesi di quello che sarebbe il modello tedesco, poi tra poco sentiremo anche vari passaggi dal PD con Rosato, Di Maio del Movimento 5 Stelle, Brunetta di Forza Italia, però in modo molto didascalico per chi ascolta, perché lo dico sempre, ho paura di qualche colpo di sonno degli ascoltatori quando si parla di legge elettorale, perché diciamo è un argomento abbastanza complesso, se tu dovessi dire proprio in poche parole, con molta chiarezza, in cosa consiste questo modello tedesco? Beh, è di base un sistema proporzionale, quindi ogni partito ha degli eletti in proporzione ai voti presi. Sì. Lo sbarramento al 5% lascia fuori i partiti più piccoli e questi voti persi, tra virgolette, cioè per i partiti che non riescono a superare la soglia, vengono distribuiti tra i partiti più grandi, quindi che prendono un pochino più di eletti, verosimilmente, rispetto ai voti ricevuti. È fatto 50% per collegi uninominali, però non si tratta di collegi uninominali maggioritari come erano quelli del Mattarellum. È un sistema che permette di mandare in Parlamento il parlamentare che vince nel collegio, ma la ripartizione dei seggi viene fatta a livello nazionale su base proporzionale, quindi anche chi perde ha il suo posto, insomma, in paradiso, per così dire. È lo stesso sistema che c'è in Germania, ci saranno delle piccole differenze perché in Germania a tutti i vincitori nei collegi viene assicurato il seggio e per questo in Germania è previsto un numero variabile di deputati, cosa che in Italia non si può fare perché noi il numero dei deputati e dei senatori è fissato dalla Costituzione, quindi dovranno trovare un meccanismo per evitare che chi vinca nei collegi, questo chiaramente riguarda solo i grandi partiti, quelli che avranno più voti, chi vince nei collegi poi si trovi fuori dal Parlamento. E per il resto l'altro 50% invece avviene con il voto di lista e piccole liste bloccate da 2, 3, 4 nomi che saranno verosimilmente scritti sulla scheda, quindi gli elettori sapranno Chi andranno vota, a votare. Sì. Senti Emilia, cominciamo a sentire allora qualche dichiarazione, per esempio del capogruppo del PD Rosato. Giornata positiva di incontri sulla legge elettorale, noi abbiamo una proposta forte che dà garanzia a questo paese di avere una buona legge elettorale, ma l'abbiamo detto con chiarezza, siamo disponibili a una discussione con tutti i gruppi parlamentari. Stiamo facendo questo, lo faremo nelle prossime ore, nel rispetto del mandato che ci ha dato il Presidente della Repubblica. Allora, questo era Rosato per quanto riguarda il PD. Sentiamo invece Di Maio del Movimento 5 Stelle, sempre dopo questo incontro che c'è stato con il Partito Democratico. Incontriamo gli esponenti del Partito Democratico per capire che intenzioni abbiano. Una cosa la devono sapere gli italiani: la nostra partecipazione alla formazione di una legge elettorale serve ad arginare l'inciucio tra Renzi e Berlusconi, serve a fermare un ennesimo governo dopo le prossime elezioni politiche che possa essere composto ancora dai vecchi partiti che hanno votato la legge Fornero, sostenuto Equitalia e massacrato la scuola. Quindi noi ci siamo sulla legge elettorale proprio per fermare eventuali inciuci che si stanno apparecchiando in queste ore tra i partiti morenti di questo paese che provano a mettersi insieme per non morire. Quindi abbiamo sentito Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, ora Brunetta di Forza Italia. Noi pensiamo, anche alla luce delle condivisioni delle ultime ore, che questo sia il modello che abbia la più ampia base politico-parlamentare, dalla sinistra del PD al PD, al Movimento 5 Stelle, a Forza Italia, alla Lega, a Fratelli d'Italia, ai centristi, quindi si possono rispettare le indicazioni del Presidente della Repubblica di avere una legge con il più ampio consenso possibile da approvare in Parlamento per poi andare alle elezioni. Voce adesso al leader della Lega Salvini. Noi da dicembre diciamo a Renzi: porta la legge elettorale che vuoi in Parlamento, noi te la votiamo. Quella tedesca, quella finlandese, quella portoghese, quella uruguaiana, quello che vuoi. Alla Lega va bene qualunque legge elettorale perché noi confidiamo nel fatto che poi gli italiani sapranno scegliere al di là dei trucchi o dei trucchetti. Se è il tedesco, arrivi il tedesco. Se è il maggioritario, arrivi il maggioritario. Comunque vada, insomma, qualunque legge votiamo, questa è la priorità di Salvini. Allora diamo spazio anche a Sinistra Italiana con Fratoianni. Mi stupisce che il Movimento 5 Stelle, diciamo, che a lungo ha posto il tema di leggi elettorali non costruite sull'interesse di qualcuno, adesso proponga qualche pasticcio rispetto a un modello come quello tedesco che è molto chiaro. Sinistra Italiana è disponibile ad approvare una legge elettorale che sia interamente proporzionale, senza trucchi, e su questo siamo stati chiari. E se la legge è interamente proporzionale e non ci sono trucchi, per noi non ci sono problemi di soglia. Insomma, mi sembra un'ampia disponibilità, Emilia. Leggo anche una dichiarazione di Renzi di poco fa sulla sua E-News. Dice: la legge elettorale della Germania non è la mia preferita, anzi, tuttavia in queste ore molti partiti tra quelli che hanno sostenuto il no al referendum la stanno indicando come proposta al paese. Il PD non ha i numeri da solo, ma se dobbiamo andare sul modello tedesco, che sia tedesco, anche nella soglia di sbarramento del 5%. Senti, secondo te c'è quindi possibilità che si vada a votare prima della fine della legislatura, quindi in autunno, come si sta dicendo? Sì, a questo punto sì, perché Renzi lo vuole, non lo nasconde, insomma, nelle sue conversazioni informali, che secondo lui la cosa migliore sarebbe andare a votare il 24 settembre assieme alla Germania, in modo anche da giocare la carta della riforma europea contro i populismi, eccetera. Lo chiedono anche Grillo, anche la Lega, e da ultimo lo chiede anche Berlusconi, che ha fatto una serie di valutazioni, gli conviene non attendere la sentenza di Strasburgo sulla sua candidabilità perché i segnali sono quelli di una sentenza negativa, quindi a lui conviene andare a votare prima. E detto questo, però, rimane un problema non da poco, insomma, infatti al Colle, diciamo così, oltre che al governo c'è molta preoccupazione. Se si va a votare a fine settembre bisogna comunque varare una legge di bilancio, la vecchia finanziaria, da mandare a Bruxelles il 15 ottobre. Quindi i tempi sono strettissimi e nel caso in cui non si riuscisse a formare un governo subito perché il risultato delle urne magari non è chiaro, c'è sempre il rischio che si arrivi all'esercizio provvisorio se non si riesce ad approvare la manovra nei due rami del Parlamento entro il 31 dicembre. Quindi, insomma, c'è un po' un'operazione che vuole cercare di mettere in sicurezza i conti pubblici prima del voto, ma non si sa ancora bene come questo andrà. Possa avvenire. Però certo, la preoccupazione del Quirinale ha un suo fondamento, insomma, perché in una situazione poi di instabilità potrebbero esserci anche delle fibrillazioni sui mercati, lo spread potrebbe aumentare. Abbiamo visto, insomma, già la reazione delle borse di oggi, insomma. Già oggi il rischio c'è. Emilia, abbiamo proprio due secondi con Andrea che scrive: nessuno si scandalizza del fatto che gli italiani hanno votato un referendum per il maggioritario. Evidentemente le cose cambiano, certo, quella è la volontà del popolo, come si dice, però pare che si stiano mettendo d'accordo su una legge con una grossa parte proporzionale. Ma questo è anche frutto, andrebbe risposto all'ascoltatore, anche frutto del no al referendum dello scorso 4 dicembre, perché sono sopravvissute due camere con tre poli, quasi quattro, quindi obiettivamente fare una legge elettorale maggioritaria è molto difficile in questo quadro politico. Chiarissima, grazie Emilia Patta, ciao, buon lavoro. Anche a voi, grazie. Ciao Emilia. Ora invece parliamo dei guai di Gianfranco Fini, che faceva parte della, come diciamo, esponente di livello della politica italiana, però ci fu una vicenda che segnò di fatto la sua fine politica, ed è l'inchiesta che ha riguardato in primo tempo la famiglia di sua moglie e che in realtà adesso lo sta coinvolgendo un po' tutto tondo, sembrerebbe, un'inchiesta che coinvolge l'ex leader di Alleanza Nazionale e anche ex presidente della Camera, il gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza, il GICO, ha sequestrato a Gianfranco Fini €1 milione di euro in polizze vita. Nell'ambito di questa inchiesta, che appunto vede l'ex presidente della Camera e tutti i parenti di sua moglie Elisabetta Tulliani indagati per vari reati, tra cui anche il riciclaggio per una serie di affari con il re del videopoker Francesco Corallo. C'è il nostro Ivan Cimarusti del Sole 24 Ore. Ciao Ivan. Buonasera a tutti. Senti, ma è sempre una storia che ha a che fare con quella famosa casa di Monte Carlo, che ricorda un immobile che era di Alleanza Nazionale, che per un giro immobiliare finì poi nelle mani del cognato, no, di Fini, Giancarlo Tulliani. È sempre legato a quella storia lì? Esatto. esattamente. Diciamo che l'acquisto della casa, della famosa, ormai famosa casa di Monte Carlo, è soltanto una parte di una più ampia inchiesta che sta, insomma, che sta coinvolgendo, come giustamente facevi notare, sempre di più l'ex presidente della Camera Fini. Il GIP in questo decreto, perché oggi la procura gli ha notificato un decreto di sequestro, le hanno portato via 934.000 euro, che sarebbero il valore di due polizze che Fini aveva stipulato. Ciò che emerge da questi documenti porta a pensare che l'ex presidente della Camera abbia avuto in questa vicenda una centralità progettuale e decisionale in un sistema poi di riciclaggio internazionale che coinvolge la società Global Starnet, sarebbe l'ex B+, la società di Gianluca Corallo, che poi è stato il dominus delle slot machine e videolotteri in Italia. È venuto fuori e sta venendo fuori appunto questo sistema che coinvolge sempre più Gianfranco Fini, e soltanto in un secondo tempo la famiglia Tugliani, che prima invece si riteneva essere i veri responsabili di questo meccanismo con Corallo. Senti, e quindi adesso vabbè, bisogna vedere come procede l'inchiesta, però come dicevi tu sembrerebbe che abbia avuto un ruolo ben più importante di quello che sembrava. Sì, un ruolo molto più importante, secondo la procura ovviamente, secondo anche il GIP che ha convalidato poi queste ipotesi della procura. Fini nel suo interrogatorio ha negato di avere tutte le contestazioni che muove il procuratore aggiunto Michele Prestipino e il sostituto Barbara Sargenti, magistrati della procura di Roma. Il GIP però ritiene, lo cito testualmente, che si tratta di una negatoria del tutto inverosimile, cioè ritiene proprio che la posizione difensiva di Fini sia basata su basi molto, insomma, fragili. Deboli, fragili. Gli avvocati dell'ex presidente della Camera sostengono di poter dimostrare la totale estraneità, eppure gli atti evidenziano in realtà degli aspetti anche di natura corruttivi, anche se però non sono ipotizzati perché comunque è intervenuta la prescrizione di questi reati. E per il momento ci fermiamo qui allora. Grazie Ivan Cimarrusti. Grazie a voi. Grazie Ivan, buon lavoro. Direi che ci possiamo fermare, prendere una breve pausa di ricreazione. Voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte con i vostri commenti, le vostre opinioni, così come anche utilizzando il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti le avete sentite, come sempre all'inizio vi ho raccontato in sintesi la giornata, Roberta Giordano sempre con voi, e lo sapete, se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi se volete, Roberta Giordano. Dicevo quindi le notizie, ve le ricordo comunque ogni tot, qualcuno ancora si meraviglia dopo anni di Effetto Notte, ma come ogni tanto ripeti le stesse notizie, sì, perché non tutti per volontà o soprattutto magari malgrado loro non riescono a sentire dall'inizio Effetto Notte. No, io vi raccomando sempre, anche per una questione proprio di salute, di sentirlo dall'inizio alla fine, dalle 21 alle 22 puntualmente, però non tutti possono riuscirci. Quindi tra poco vi ricordo ancora i fatti principali e tra poco cominceremo invece ad affrontare un tema diverso. Abbiamo parlato lungamente prima di politica, della legge elettorale, di un'intesa che potrebbe essere vicina con la convergenza dei maggiori partiti nel Parlamento, e poi abbiamo anche parlato dell'ultima disavventura, insomma, di Gianfranco Fini, da quella storia ancora dell'appartamento di Monte Carlo, che è quello che poi ha segnato definitivamente la sua uscita di scena dalla politica italiana. Tra poco invece ci allargheremo con gli orizzonti, andremo a parlare di nuovi possibili equilibri geopolitici segnati soprattutto una specie di svolta, un po', non so se è negativo o positivo, dal G7 di Taormina di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Però, come dicevo, prima di tutto, se non avete acceso puntualmente alle 21, queste sono le notizie in primo piano. Legge elettorale: PD e Movimento 5 Stelle convergono sul sistema elettorale tedesco dopo un incontro che definiscono cordiale e distaccato. Ma Alfano non ci sta, il rischio elezioni fa cadere la borsa, meno 2%. Economia: Draghi al Parlamento europeo dice ripresa solida, ma è ancora necessario un forte stimolo monetario. Dopo il G7, il ministro degli esteri tedesco Gabriel sottolinea: con Donald Trump gli Stati Uniti perdono il loro ruolo di leader nell'Occidente. Prova di dialogo intanto tra Macron e Putin ricevuto in Francia. Gianfranco Fini indagato per concorso in riciclaggio. viaggio, sequestrate all'ex presidente della Camera due polizze vita da 1 milione di euro, il bimbo morto dopo cure omeopatiche ad Ancona, secondo l'autopsia è deceduto per encefalite, per stabilire le cause poi dell'infezione si attendono esami istologici. La donna morta bruciata dall'ex, 30 anni di carcere all'assassino che il 2 agosto a Lucca l'ha cosparse di benzina e poi le dette fuoco. E poi Tiger Woods, ancora guai, arrestato in stato di ebbrezza, non si ferma il declino dell'ex campione di golf. Quindi nel fine settimana avevamo parlato del G7 di Taormina, quindi il vertice dei grandi della Terra, almeno per quanto riguarda i grandi dell'Occidente. E non è stato un gran successo, ma soprattutto diciamo che questo vertice ha evidenziato la grande distanza di intenti tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Trump, vi ricordate, era stato musonito un po' tutto il tempo, se n'è andato anche senza fare conferenza stampa dicendo che i tedeschi sono cattivi e lasciando in sospeso la questione dei cambiamenti climatici. La cancelliera Merkel ha pragmaticamente concluso che non possiamo contare sugli Stati Uniti, ha detto senza giri di parole. Ha detto ancora Merkel: l'accordo di Parigi era un passo storico, ma per arrivare a uno storico successo c'è ancora molta strada davanti a noi. Il G7 in Sicilia, ha detto ancora Merkel, ha reso chiaro quanto lunga e impervia sia questa strada. Chi mette i paraocchi nazionali, di questo sono convinta, dice, finisce in disparte. Nel frattempo, oggi il neopresidente francese, il 39enne Macron, con un'iniziativa, possiamo dire, di realpolitik, cioè di chi si muove sapendo cos'è opportuno, cos'è strategico fare, ha invitato Putin, il presidente russo, in Francia. Lo ha accolto a Versailles con tutti gli onori. E però diciamo non gli ha lesinato diverse stoccate, anche ricordandogli delle ingerenze di cui lo si accusa Putin, ingerenze nelle presidenziali americane. E poi ha cercato questo dialogo Macron, soprattutto sul terrorismo, la lotta al terrorismo in Siria e poi anche sull'Ucraina. Macron ha anche chiesto a Putin di rispettare i diritti dei gay in Cecenia e di rispettare le ONG in Russia. Allora, visti questi eventi recenti, visto che anche il ministro, come dicevo, degli esteri tedesco Gabriel ha detto che con Donald Trump gli Stati Uniti perdono il loro ruolo di leader nell'Occidente, per Gabriel il problema, dice, va ben oltre il G7 fallito, questo purtroppo è un segnale del cambiamento dei rapporti di forza. Allora su questo voglio coinvolgere Armando Sanguini, che è consulente scientifico dell'ISPI ed è ex ambasciatore. Buonasera Sanguini. Buonasera a lei. Buonasera ambasciatore. Quindi cambiano i rapporti di forza, come dice Gabriel, il ministro degli esteri tedesco, dopo tutto questo? Come vede i nuovi equilibri? Ma dipende se di forza e rapporto di forza tra chi e chi, perché se è tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, tra gli Stati Uniti e l'Occidente, io sarei un pochino più cauto, perché in realtà quello che è successo è che Trump è intervenuto al vertice di Taormina dopo una serie di incontri in cui ha fatto quello che gli è più caratteristico, cioè ha imposto la sua agenda. L'unico con cui non è riuscito, pare, è stato proprio il Papa Francesco, ma con gli altri ha di fatto imposto la sua agenda, trovando una folla di alleati arabi e islamici in Riyadh. A Taormina ha imposto la sua agenda. Io capisco che Gabriel e anche la Merkel se ne siano risentiti, anche perché Trump non ha lesinato critiche alla Germania che anche altri paesi membri dell'Unione Europea rivolgono e hanno rivolto alla Germania. Quello che è certo è che lui si è comportato come il portavoce dell'America First, forse di fronte a una Germania che nel gruppo voleva essere la Germany First, e ci è riuscito soltanto in parte. Quindi io credo che sia Gabriel e in parte anche la cancelliera Merkel hanno in fondo privilegiato la campagna elettorale su quello che era probabilmente un atteggiamento politicamente un pochino più avvertito, uso proprio questa parola. No, io direi che ci vuole tempo perché gli Stati Uniti perdano una leadership che del resto poi quando non l'esercitano noi la invochiamo. Perché se la esercitano perché lo fanno, se non la esercitano perché non lo fanno, però se poi una potente in un consesso come quello riesce a imporre la sua agenda, questo è un significato di leadership, sarà una leadership criticabile, sarà una leadership su cui si può costruire poco, ma è una leadership. Io credo che poi il primo punto, la prima verifica avverrà al G20, che si svolgerà a luglio proprio in Germania, perché lì Trump si troverà di fronte 19 paesi e quindi lì si misurerà e gli altri misureranno le leadership che si stanno confrontando sul pianeta con in testa la Cina. Comunque è un fatto, Sanguini, che si sta creando questa distanza tra Unione Europea e Stati Uniti, no? E dall'altra questo incontro di Macron, che è parso molto risoluto con Putin, insomma, si parla di un confronto franco in cui Macron non ha usato il linguaggio felpato diplomatico, no? Ma guardi, la distanza che si è creata tra Trump e l'Unione Europea, teniamo conto che è avvenuta in una fase in cui avevamo intorno al tavolo al G7 una Gran Bretagna sulla strada di una uscita e poi tre paesi che non la pensano esattamente allo stesso modo. Quindi diciamo che la debolezza dell'Europa in fondo ha lasciato spazio all'arroganza, se vogliamo usare questo termine, di Trump, che non ha certo bisogno di inviti. Per quanto riguarda Macron, io ho seguito l'incontro e devo dire che sono rimasto sorpreso, da una parte perché ha usato i toni duri di un leader che sa molto bene il fatto suo e non ha, come posso dire, timori riverenziali nei confronti di nessuno, ma non ci dimentichiamo che tra pochi giorni andrà ad un confronto elettorale che lo vede vincente, ma con una percentuale che oscilla tra il 25 e il 28%, stando ai sondaggi. Se poi però consideriamo il seguito del dialogo, lui si è fatto promotore, come lei stesso diceva, di un rapporto di dialogo e di fermezza, di pragmatismo e di durezza, e li ha alternati. Sull'Ucraina, ad esempio, ha parlato di necessità di de-escalation, ha parlato di diritti umani, nello stesso tempo però ha fatto emergere come la Francia sia tuttora il primo investitore diretto in Russia, quindi un rapporto in cui lui si è accreditato presso un Putin che da grande giocatore di scacchi ha incassato, ma rinviando a un futuro credo abbastanza prossimo la restituzione delle cortesie, ma nello stesso tempo stabilendo un dialogo in cui, e qui è una differenza importante, in cui Parigi con Mosca è su piani diversi da Parigi con Berlino, e noi che a Taormina, mi piace dirlo, l'Italia ha mantenuto un rango e un livello all'altezza delle sfide del momento, potremmo dare un contributo forte a quello che sembra, secondo me, il risultato più problematico del G7, cioè un'Europa che ha bisogno di un colpo di reni per ritrovare coesione e unità, come del resto ha detto la cancelliera Merkel, ma questo non per dividere l'Atlantico, ma per assumere nei confronti dell'Atlantico e del resto del mondo un ruolo proporzionale al nostro peso economico e politico. E su questo si gioca la sfida dei prossimi mesi. Grazie ambasciatore Armando Sanguini. Grazie. Grazie a voi. Buona serata. Direi che adesso possiamo aggiornare chi sta viaggiando. Voi continuate con la pagina Facebook di Effetto Note con i vostri messaggi, oppure al 349-238-6666. Ci sentiamo a momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi, quindi siamo verso la fine di Effetto Note, ma c'è ancora un tema importante mentre continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Note al 349-238-6666. Matteo dice, a proposito di quello che diceva il ministro degli esteri Gabriel su Trump, che rischia all'America di perdere il ruolo di leadership nel mondo, dice: sono ancora i leader, è un fatto, l'Europa può, se vuole, iniziare un lungo, costoso e difficile processo di affiancamento, inevitabilmente a guida franco-tedesca per ora, speriamo di essere risoluti in questa direzione. Invece risolutamente vi ricordo molto velocemente le notizie principali: sono una possibile convergenza, accordo, intesa sulla legge elettorale tra PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia sul modello tedesco, ma Alfano, alleato di governo, non ci sta e intanto il rischio di elezioni in autunno fa cadere la borsa -2%. Economia: Draghi al Parlamento Europeo dice ripresa solida ma ancora necessario un forte stimolo monetario. E poi dopo il G7 abbiamo parlato di questi equilibri, di questi spostamenti, di convergenze e divergenze in Europa e con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri tedesco Gabriel, che sottolinea, come dicevamo, con Donald Trump gli Stati Uniti rischiano di perdere il ruolo leader nell'Occidente, e intanto prove di dialogo tra Macron e Putin ricevuto in Francia. Gianfranco Fini indagato per concorso in riciclaggio, e il bimbo morto dopo cure omeopatiche, secondo l'autopsia è deceduto per encefalite. E poi la donna morta bruciata dall'ex, 30 anni di carcere è stato condannato l'assassino che il 2 agosto a Lucca la cosparse di benzina e poi le dette fuoco. E ora invece andiamo sulla strage di Manchester con la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Attentato suicida, vi ricordo, ormai è passata una settimana, lunedì scorso, che ha provocato 22 vittime e molti feriti durante il concerto di Ariana Grande. Varie sono finora le persone arrestate. Tra questi Ismail Abedi, 23 anni, fratello del kamikaze Salman Abedi. E vi ricordate che venerdì avevo dato questa notizia che il capo dell'antiterrorismo britannico aveva detto sono stati compiuti degli immensi progressi nelle indagini. Però, Raffaella, il problema è anche che adesso si sta indagando anche sulle falle dell'intelligence. Quindi una specie ancora di... più che progressi, ecco. In realtà è la prima volta che il più celebre dei servizi segreti, anche mondiali, insomma, gli 007 per antonomasia, ammettono, diciamo, i loro errori e indagano su se stessi. La MI5 ha infatti aperto due diverse indagini per capire come mai non sia stato possibile individuare e bloccare Salman Abedi prima che esattamente una settimana fa si facesse saltare in aria all'arena di Manchester. Proprio in questi tra circa un'ora comincerà una veglia per appunto ricordare la strage di una settimana fa. E questo perché sono state avviate queste due indagini? Perché erano state diverse, almeno tre, le segnalazioni arrivate proprio a loro, proprio all'antiterrorismo, sul percorso di radicalizzazione di questo 22enne di origini libiche. Esatto. La stessa comunità musulmana, mi pare, esatto, che avesse denunciato. Una è arrivata dal college, dagli amici del college, che gli avevano sentito esaltare e condividere le ragioni degli attentatori suicida, un'altra dall'imam della moschea che lui frequentava, la terza pare addirittura proprio dalla madre. Ma tutto questo è rimasto lettera morta, e davanti a quella che è stata forse la più crudele, diciamo, delle stragi, anche proprio per l'età delle vittime, per i tanti bambini, per la modalità con cui è avvenuto, ecco, davanti a tutto questo l'MI5, cioè i servizi segreti, o il MI5 come diciamo all'italiana, gli 007, diciamo, gli 007 di sua maestà avviano una indagine al loro interno, una su se stessi, un'altra che poi appunto manderanno ai ministri e che quindi finirà in passo all'opinione pubblica per capire che cosa non abbia funzionato. Contemporaneamente, ecco, prosegue però anche l'indagine per capire e ricostruire la rete di rapporti, diciamo, che quest'uomo, questo ventenne, aveva. Oggi c'è stato un ulteriore arresto, un 14° arresto nel sud della Gran Bretagna, mentre si cerca di individuare anche, e anche questo è significativo, un po' delle falle commesse, questa grossa valigia blu con cui Salman Abedi poche ore prima della strage circolava nel centro della città e anche in un negozio. Le telecamere a circuito chiuso di alcuni negozi del centro della città lo mostrano, lo inquadrano appunto con questo grosso trolley che ora viene cercato anche nelle discariche della città. E quindi la polizia caccia la valigia blu. Insomma. Caccia la valigia blu, che però non dovrebbe contenere, secondo gli inquirenti, diciamo, materiale esplosivo, però allo stesso tempo lanciano appelli a far avere segnalazioni e informazioni nel caso, diciamo, qualcuno avesse avvistato questa valigia. Certo, è con un po' di rammarico carico che si leggono questi appelli degli inquirenti a collaborare, quando poi appunto avevano effettivamente avuto delle segnalazioni di una possibile radicalizzazione. Va anche detto, a diciamo parziale scapito, a parziale difesa del servizio di intelligence inglese, che i numeri dei sospettati inglesi sono enormi. La stessa ministra ha voluto precisare che Abedi non era inserito tra i 3.000 che vengono sottoposti a sorveglianza attiva, cioè quelli che vengono controllati costantemente, ma era nella lista dei 20.000 che sono sospettati di radicalizzazione. È anche vero che però questo è il loro compito, e che in questo momento, con un'Europa così bersagliata dai jihadisti, diciamo forse effettivamente qualche errore è stato commesso. Un ulteriore errore emerge in queste ore e di altro tipo, è del flop di tutto un pacchetto di misure che erano state introdotte nel 2015 in Gran Bretagna per cercare di controllare e di impedire il rientro dei foreign fighters dall'estero, almeno 350 quelli che sarebbero tornati da Siria e Iraq, e in realtà si scopre che solo in un caso queste misure sono state applicate. Ma ogni volta si dice speriamo che fungano da insegnamento queste cose, però evidentemente c'è ancora dell'impreparazione, e poi, come dicevi tu Raffaella, sono purtroppo migliaia da tenere sotto controllo. Grazie intanto a Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella, noi ci riaggiorniamo come sempre brevemente alle 22.